Molto facile, perché di fatto l'importante è essere incensurati, non essere tossicodipendenti o avere delle malattie psichico-mentali, sulle quali ci sono generalmente, dico generalmente, poi lo spiego, dei cosiddetti background checks, cioè dei controlli appunto sullo stato di salute mentale e psicofisico, e ovviamente per quanto riguarda i casellari giudiziari, diciamo così, di una persona. Ma una persona appunto di 20 anni può tranquillamente acquistare un'arma. In questo caso credo che forse l'arma appartenesse al papà, da quanto mi sembra di aver letto, però le notizie in questi momenti sono molto ballerine. Ma comunque è molto facile, ecco. E soprattutto acquistare fucili semiautomatici, cosiddette armi d'assalto, non fucili d'assalto, ma armi d'assalto, che sono semiautomatici, ma hanno la capacità, ovviamente, e soprattutto con certi caricatori anche di grossa potenza, di sparare ad una notevole distanza e ovviamente di sparare non a raffica, perché quelle possono farlo solo i fucili automatici, ma se uno si addestra, insomma, in maniera molto, molto forte e molto veloce. Ecco. Veniamo alla politica. Durante la presidenza Obama si era tentato, o detto perlomeno, un controllo, una riduzione della circolazione delle armi, e poi non è avvenuta questo. Sì, Obama ha cercato in tutti i modi, di restringere le leggi federali per quanto riguarda il possesso delle armi. Il problema è che non avevano la maggioranza al Senato, se non ricordo male, in quel tempo, e quindi, dovendo essere norme che devono passare in entrambe le Camere, non sono riuscite ad essere, non è stato possibile approvarle. Però va detto perlomeno che Biden qualcosa ha tentato di farlo. Per esempio, recentemente, l'anno scorso, ha introdotto la norma, diciamo così, che richiede che tutti coloro che acquistano un'arma, non solo da rivenditori autorizzati, ma anche da rivenditori privati che però vendono più armi o vendono armi che magari hanno acquistato di recente, chi fa questo tipo di attività debba richiedere i cosiddetti appunto background checks. Perché cosa succedeva? Succedeva che molta gente appunto che non poteva acquistare armi in un'armeria le acquistava da privati, e molti privati facevano anche un sacco di soldi acquistando poi delle armi, perché le potevano acquistare, e poi rivendendole, siccome non c'era l'obbligo di appunto di fare questi background checks, questi controlli, no, sullo stato di salute mentale e sulla situazione, diciamo, giudiziale di una persona, e quindi le vendite a privati erano molto facili ed erano una grandissima scappatoia. Biden è riuscito perlomeno a limitarlo e gli va dato atto. Però comunque negli Stati Uniti la lobby delle armi continua a essere molto forte. Sì, è fortissima, questo è chiaro, ma attenzione, anche qui è un punto che va detto con chiarezza. Gli americani, lo dicono tutte le indagini del Gallup, ormai da 30 anni e più, chiedono norme più restrittive sul possesso delle armi. Tutte le indagini di opinione dimostrano che almeno il 60-70%, anche nei casi in cui scendono, magari arriviamo al 50%, ma sono sempre la gran parte degli americani, chiedono norme più restrittive sul possesso di armi. Il problema è la politica, il problema è il fatto che appunto la National Rifle Association, ma anche altre associazioni, di fatto controllano, comprano i parlamentari sostanzialmente. Tutti sappiamo quanto costa una campagna elettorale negli Stati Uniti, e il fatto di poter controllare, quindi di poter finanziare la campagna elettorale di un certo numero di senatori e di deputati, poi fa in modo che appunto le loro scelte siano poi decise da chi ti ha finanziato la campagna elettorale.